Questa è la prima puntata di Bim Bum Vale Giù, un programma che parla di giochi provenienti da tutti gli angoli del mondo, perché tutti giocano e nessuno gioca per caso, ma anzi sono le attività più spontanee, le più quotidiane, a nascondere nelle proprie forme, nelle proprie abitudini e ricorrenze, i segreti più profondi della nostra esistenza, quelli più difficili da spiegare. Che senso ha cercare di colpire l'altro con un pallone? E perché giocare a nascondersi? Qual è la storia delle figure degli scacchi? Qual è il senso profondo della competizione e della scommessa? Che differenza c'è tra la corsa e la morra cinese? Queste domande, e tutte le altre che ci possiamo fare nel corso delle indagini, rivelano un mondo popolato di finzioni, di illusioni, di abitudini, di storia e di cultura, un ricettacolo di esperienze tanto più significative quanto più nascoste dentro la pratica del gioco e le sue modalità. Il nostro programma comincia da qui, dalla sensazione che dietro un gioco si nasconde una storia importante da raccontare, a cui si congiungono poi tutte le storie delle persone che hanno studiato, giocato e che giocano tuttora. Radio 110 presenta Bim Bum Vale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Vale Giù, così gioca il mondo. Stiamo parlando di un interesse antropologico che rimonta alla seconda metà dell'Ottocento, quindi stiamo parlando di un'epoca nella storia dell'antropologia in cui gli antropologi erano molto interessati alla questione delle origini dei fenomeni osservati. Oggi questo tipo di interesse è meno vivace, non che siano diminuiti gli interessi di carattere storico, però sicuramente sono diminuiti quegli interessi che tendevano a stabilire delle gerarchie cronologiche, delle cronologie forti fra fenomeni molto distanti, per esempio. Ecco, quindi allora era importante per alcuni antropologi, parliamo per esempio di Taylor, di Morgan e di Kalin, che si occupava proprio di giochi, e di altri autori, era molto importante stabilire l'origine delle cose. Quindi Taylor in particolare, vedendo la forte somiglianza fra due giochi, uno diffuso in India, che è il Pacisi, l'altro diffuso in Mesoamerica, il Patolli, testimoniato peraltro in epoca precolombiana, era molto interessato a capire che cosa fosse successo, come mai due giochi così vicini, così simili, così formalmente simili, in qualche modo potessero trovarsi in due punti così distanti della Terra. Benvenuti a Bim Bum Vale Giù. Io sono Francesco e questo è il nuovo programma di Radio 110 che, come avete sentito dall'introduzione, parlerà di giochi. Quali giochi? Direi tutti i giochi che ci vengono in mente, da ogni parte del mondo, fin quando il tempo a nostra disposizione non sarà giunto a conclusione. Presenteremo un tipo di gioco diverso per ogni puntata e vi racconteremo come funziona e anche cosa significa nei limiti delle nostre possibilità, in compagnia di volta in volta di un esperto, un accademico o un giocatore, a seconda delle occasioni. Per creare una piccola enciclopedia del gioco, ma senza prendersi troppo sul serio. Un poco alla volta, con quello che riusciamo a portare a galla, imparare qualcosa di nuovo sull'attività del gioco, che è un'attività fondamentale eppure sfuggita per la maggior parte del tempo, inspiegabilmente, all'attenzione dell'occhio accademico. Però la novità che introduce in qualche modo Taylor e che spiazza l'immagine nella storia degli studi di Taylor è che lui, essendo un forte evoluzionista, doveva propendere in qualche modo più per la poligenesi, ossia per la nascita multipla di fenomeni che possono sembrare analoghi ma che l'uomo si inventa più volte, perché avendo una forma mentis uguale ovunque, e chiaramente la poligenesi era l'arma forte per dare spiegazioni delle diversità culturali o delle somiglianze culturali. Invece in questo caso Taylor in qualche modo ci spiazza, perché Taylor fa un ragionamento tipicamente diffusionistico. È impossibile che un gioco così complicato sia stato inventato due volte indipendentemente. E questo lo fa assomigliare più nella metodologia, lo fa assomigliare più a un diffusionista piuttosto che a un evoluzionista. E per fare questo presume che in realtà il gioco sia stato inventato una volta sola in India e poi da lì si sia diffuso in epoca precolombiana, quindi lui ipotizza anche ci fossero stati attraverso soprattutto la Polinesia, ci fossero stati dei contatti, barche che si perdono alla deriva e che poi approdano nelle coste americane, che si sia quindi questo gioco diffuso dall'India da una parte appunto verso Oriente e dall'altra verso Occidente, e vede delle somiglianze appunto sia nel patolli mesoamericano e sia in altri giochi nostri che sono il tab arabo oppure il backgammon. Questo gioco ha fatto un viaggio lunghissimo da una parte verso l'America e dall'altra appunto verso l'Occidente. Bim bum bale giù. State ascoltando Radio 110, la trasmissione è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. La voce che state ascoltando, e di cui abbiamo già mandato in onda due interventi, è quella della professoressa De Sanctis Ricciardone, ordinario di antropologia culturale presso l'Università degli Studi della Calabria, autrice del libro Antropologia e Gioco e curatrice della raccolta Il Potere del Debole, gli unici testi italiani a trattare del tema del gioco in ambito antropologico. Abbiamo chiesto alla professoressa De Sanctis Ricciardone di parlarci del gioco del patolli e del dibattito che c'è stato tra i primi antropologi riguardo alle somiglianze di questo gioco con il pacisi, un altro gioco proveniente da un'altra parte del mondo. Per capire meglio, per contestualizzare, apriamo una piccola parentesi teorica, ogni tanto saremo obbligati a farlo, e diamo una piccola definizione della corrente del diffusionismo. Il diffusionismo è una corrente ideologica in ambito antropologico nata a fine Ottocento, nata in contrapposizione alle teorie evoluzionistiche secondo le quali ogni società avrebbe attraversato gli stessi stadi evolutivi. La corrente diffusionistica, al contrario, sosteneva che una cultura o alcuni tratti culturali potessero diffondersi geograficamente, da qui la spiegazione alle somiglianze di alcuni aspetti simili appartenenti a civiltà anche molto distanti dal punto di vista spaziale. Bim bum bale giù! Questa ipotesi di Taylor si basa su alcuni elementi, cioè alcune caratteristiche che evidentemente questi giochi che lei ha prontamente elencato hanno l'un con l'altro. E volevamo chiederle appunto quali sono queste caratteristiche. Sono giochi che racchiudono due caratteristiche. Da un lato la chance, cioè l'azzardo, l'evento stocastico che genera le mosse. E dall'altra però anche la strategia, perché a quel punto uno lancia i dadi, però poi deve saper giocare. Quindi questo accoppiamento di fortuna e strategia lo vedeva un elemento importante. Poi il fatto che fosse un board game, cioè un gioco da tavolo che con, diciamo, i percorsi predisegnati. Sì, anche sì, quello, come noi abbiamo il backgammon, che abbiamo appunto quelle strane punte, no? Chi ci sa giocare lo vede bene. E anche il pacisi e anche il patolli hanno un board, cioè hanno una scacchiera, una sorta, diciamo, di strada, un di percorso precostituito delle mosse possibili, delle pedine. E poi aveva questa struttura a croce, soprattutto il patolli. In altre varianti delle maglie poteva avere anche un'altra struttura, il tipo di percorso, ma il patolli aveva invece questa struttura a croce che appunto per Taylor era riconducibile al pacisi. Sì, perché poi a guardarli così sembrano lo stesso tabellone, lo stesso gioco fondamentalmente. Sì, infatti se uno le vede sembrano lo stesso tipo di board. Ecco, sì. Questo è stato molto contestato poi in anni successivi da Kalin, pochi anni dopo, sostiene che in realtà il patolli è un gioco tipicamente americano e che quindi in qualche modo sono fantasiose, ecco, le ipotesi che possano, che questo gioco possa provenire, che poi altri ancora hanno sostenuto che poi queste somiglianze non sono poi così forti da poter giustificare questo. Sì, perché poi Kalin aveva in qualche modo ricollegato il patolli ai giochi che avvenivano in Nord America, quindi esatto, uno spostamento diverso geograficamente. Quindi lui dice casomai il patolli è una, come dire, un'evoluzione, una modificazione nel tempo, un raffinamento di una serie di giochi, di pedine, di lanci, di non proprio, noi diciamo dadi impropriamente. Sì, non si tratta di veri e propri dadi. Sono dei dadi, sono dei lot, sono dei pezzi che si lanciano, che possono essere fagioli, possono essere pietre, possono essere conchiglie. Insomma, non hanno la configurazione del dado nostro. Quindi, però, lui dice che in fondo sono delle modificazioni e degli aggiustamenti ed anche delle forme di elaborazione di giochi che sono riscontrati anche nel Nord America, eccetera. Quindi, secondo lui, l'origine è tutta americana. Ma quello che è interessante notare dal punto di vista storico-antropologico è che questo tipo di tematiche interesserà sempre poi negli anni sempre meno. Quello che è importante sapere per un antropologo è capire i significati, le funzioni e la specificità del gioco nel contesto in cui si gioca. Radio 110, Bim Bum Bale Giù. Abbiamo ascoltato un altro contributo dell'intervento telefonico della professoressa De Sanctis Ricciardone, ordinario di antropologia presso l'Università della Calabria. L'argomento della puntata di oggi è il patolli, un gioco risalente all'epoca medievale praticato in America Centrale, proibito durante la colonizzazione spagnola e successivamente scomparso dall'uso. Vogliamo parlare di questo gioco, nella nostra prima puntata, perché rappresenta un momento iniziale nello studio dei giochi in antropologia, quando, cioè, i giochi entrano attivamente nel dibattito tra due diverse posizioni teoriche, come abbiamo visto, in una questione cruciale quale quella della comune o differente origine delle culture, che aveva impegnato in lunghe discussioni gli studiosi dell'epoca. Adesso vi presentiamo un'altra scheda, un estratto dal saggio di Taylor intitolato On the Game of Patolli in Ancient Mexico and its Probably Asiatic Origin, e tradotto in italiano con il titolo Sui giochi di sorte americani. Sin dal 1519 gli invasori spagnoli che si dirigevano verso la città di Messico notarono tessuti lavorati con modelli a scacchiera e da ciò ipotizzarono che anche i bossoli per gli scacchi fossero in uso nel paese. Il solo gioco messicano per il quale è probabile che tali tessuti fossero realizzati tuttavia era il patolli. La descrizione di questo gioco, scritta da López de Gomara fra il 1540 e il 1550, ci dice: talora Montezuma guardava come giocavano al patolli, gioco assai simile a quello delle tavole. Lo si gioca con dei fagioli muniti di contrassegni e simili a dadi con una sola faccia, che essi chiamano patolli. Su questo e altri giochi gli indios non solo potevano rischiare la loro riduzione in schiavitù, ma persino di essere mandati legalmente a morte come sacrifici umani. Questi giocatori d'azzardo erano avidi a tal punto da considerare gli strumenti del gioco quali loro divinità particolari. Se si trattava di un giocatore di dadi, costui idolatrava i patolli assieme alle linee e figure tracciate sulla stuoia. Tali divinità erano adorate con particolari cerimonie, non solo di questa attività ludica, ma anche in occasione di tutti gli altri loro giochi. I giocatori incalliti erano soliti girare con la stuoia sotto braccio e i dadi avvolti in un panno. Proprio come ai giorni nostri, i biscazzieri girano con le loro carte nella tasca dei pantaloni da una bisca all'altra, così essi trasportavano i dadi e le pedine in pietra in un piccolo cesto e li riverivano come fossero divinità. Parlavano a essi come si è usi fare con creature intelligenti, rivolgevano ai piccoli fagioli e alla stuoia migliaia di parole affettuose, riponendo poi il piccolo cesto nel luogo d'adorazione con accanto gli strumenti del gioco e la stuoia dipinta, e accendendo per esso fuochi nei quali gettavano incenso. Essi compivano persino sacrifici dinanzi a esso con l'offerta di cibi e, terminato il rito, erano pronti a giocare con la più grande fiducia. Bim bum bale giù! Io volevo isolare due argomenti, uno che non ho capito molto bene, sul quale chiedo proprio a lei un chiarimento, e la seconda poi è collegata concettualmente a questo argomento, nel senso che si parla comunque di azzardo. La prima domanda si riferisce al discorso sul calcolo probabilistico, sì, che in qualche modo viene sollevato dall'osservazione di Taylor, che mi sembrava abbastanza importante. Taylor, nonostante abbia questa sorta di pseudo apertura diffusionistica, in realtà ribadisce sempre lo stesso concetto, e cioè l'unità psichica del genere umano. Lui dice che in fondo gli uomini si dipingono la faccia in maniera diversa, si sposano in maniera diversa, eccetera, però la struttura mentale, l'apparato logico è uniforme in sì. tutti gli uomini. Ecco, è sempre lo stesso. Diciamo un grande passo in avanti rispetto a teorie razzistiche che circolavano ai suoi tempi, eccetera. No? Che questo, tra le altre cose, se posso permettermi, è un po' sorprendente da parte di un evoluzionista, nel senso che parlando di stadi dell'evoluzione si tendeva comunque a difendere una mentalità, diciamo così, occidentale scientifica da una mentalità primitiva. Quindi uno avrebbe potuto. Guardi, per esempio, Fraser, che è un altro grande evoluzionista, diceva che fra magia e scienza, dal punto di vista logico, non c'era nessuna differenza. Cioè, era lo stesso tipo di associazione di idee, solo che nella magia veniva applicata erroneamente, come diceva lui, e nella scienza correttamente. Ma lui diceva che il meccanismo mentale della magia e della religione, in fondo, era sempre un meccanismo logico, un meccanismo che anche lì rivelava un'unità psichica del genere umano. Quindi gli evoluzionisti, almeno questo tipo di evoluzionisti classici, chiamiamoli così, vittoriani, non erano razzisti, erano casomai etnocentrici, cioè sì. dicevano che poi alla fine di tutto questo cammino degli stadi eccetera, all'apice c'eravamo noi, cioè sì. noi, la società occidentale della seconda metà dell'Ottocento, delle grandi rivoluzioni industriali, del cammino della scienza eccetera. Però contemporaneamente dicevano pure, attenzione, loro sono partiti in ritardo rispetto a noi, ma ci arriveranno pure loro, sì. perché la loro mente è la stessa nostra. Una sorta di, forse, di fraintendimento che però era giustificabile all'epoca in cui lo studio scientifico antropologico era comunque embrionale. Ma poi soprattutto era innovativo rispetto alle teorie invece che invece frammentavano l'umanità in gruppi inferiori, sì. superiori, eccetera. Insomma, tutte le teorie, anche la monogenesi, in fondo aveva nei diffusionisti e in alcuni diffusionisti aveva un fondamento razzistico. Addirittura si andava a ipotizzare che l'uomo fosse nato varie volte nel mondo, cioè che l'essere umano appunto nato varie volte, che quindi aveva proprio delle caratteristiche psichiche, antropologiche completamente differenti. Ecco, quindi sì. diciamo che loro per l'epoca e per il periodo erano più che avanzati da questo punto di vista, erano certo. progressivi, progressisti. Okay. Ma poi ritornando al calcolo delle sì. probabilità, Taylor dice: poiché in questo tipo di giochi si attribuisce un punteggio maggiore a delle combinazioni meno probabili, questi qui già c'avevano Pascal dentro la testa. Sì, sì, sì, perché chiaro, no? avevano già chiaro in mente già il calcolo delle probabilità, certo. anche se non formalizzato come magari l'ha formalizzato Pascal. Quindi diciamo che l'accusa di una mentalità primitiva era infondata fondamentalmente. Sì, infatti, perché dice allora perché se sono così irrazionali è solo applicata a un contesto, dei punteggi maggiori a dei tiri improbabili, perché sanno che sono improbabili. Siete ancora su Radio 110, questa è Bim Bum Baleju. La voce che state ascoltando è quella di Francesco. Stiamo attraversando il Messico in cerca del Patolli, accompagnati dall'esperienza e conoscenza della professoressa De Sanctis Ricciardone, la quale ci ha appena spiegato qual era, in rapporto all'epoca in cui vivevano, la posizione originale e innovativa dei primi antropologi e dei loro primi tentativi di riabilitare le culture altre presenti negli altri continenti con le quali l'Occidente si era incontrata durante l'epoca coloniale e nei secoli successivi. Prima di lanciare il prossimo contributo e l'ultima parte della nostra intervista, vogliamo però raccontarvi un po' come funziona questa trasmissione. Innanzitutto, per ogni puntata parleremo di un gioco. Oggi, ad esempio, parliamo del Patolli. Inoltre, per ogni puntata avremo diverse schede che trattano l'argomento sotto punti di vista particolari: la storia del gioco, le regole del gioco, come si costruisce il gioco, oppure, come abbiamo fatto oggi, inseriremo una piccola pillola di teoria antropologica per non farci mancare nulla, a seconda che le fonti ci permettano o meno di accedere a determinate informazioni. Come avete potuto ascoltare, nella puntata di oggi abbiamo preferito estrapolare un brano del saggio di Taylor sui giochi di sorte americani per raccontarvi un aspetto culturale del gioco, visto che la sua storia è per lo più sconosciuta ed è ricostruibile solo attraverso fonti letterarie sparse a cui purtroppo non abbiamo accesso. Infine ci sarà l'intervista con uno studioso oppure un giocatore sull'argomento della puntata, per approfondire e magari anche raccontare aspetti particolari del gioco, cose che magari non troviamo sui libri o sui siti internet. Continuiamo però con l'ascolto dei nostri contributi, il prossimo dedicato alle regole del gioco del Patolli, per quanto ci è stato dato conoscerle, per poi passare alla professoressa De Sanctis Ricciardone e all'ultima parte dell'intervista. L'obiettivo del gioco era quello di conquistare tutti gli oggetti che l'avversario metteva in gioco all'inizio di ogni partita. La scacchiera aveva una forma di X, con caselle quadrate triangolari che scendevano da un lato della X e risalivano dall'altro, per un totale di 52 caselle. I segnaposti erano di due colori, rosso e blu. Per accedere alla scacchiera, il giocatore lanciava 5 fagioli. Questi fagioli, o patolli, avevano un lato segnato con un punto bianco. Per accedere alla scacchiera, era necessario ottenere con un lancio almeno un punto bianco dei 5 disponibili. Dopo che un giocatore aveva posto sulla scacchiera una propria pietra, poteva muoverla di tante caselle quanti i punti bianchi mostrati dai fagioli lanciati. Le 4 caselle al centro della X venivano considerate speciali. Ad esempio, un giocatore, se riusciva ad arrivare con una propria pietra in una casella al centro della X occupata dall'avversario, poteva spostare uno dei segnaposti avversari fuori dalla scacchiera, riportandolo nel mucchietto di partenza. L'avversario era quindi costretto a cedere uno dei propri oggetti all'altro. Un'altra area speciale era segnata da 2 triangoli scuri vicino alla fine di ogni braccio della X. Se una pedina finiva in una di queste 2 caselle, al giocatore poteva essere richiesto di dare uno dei propri oggetti all'avversario. Il giocatore che riusciva a completare il percorso della scacchiera con tutte e 6 le pedine prima del suo avversario era dichiarato vincitore della partita e quindi della posta in gioco. Bim bum baleggiù! Questa è Bim bum baleggiù, così gioca il mondo. Siamo su Radio 110, la web radio dell'Università degli Studi di Torino. In questa prima puntata parliamo del gioco del Patolli, un antico gioco messicano. Abbiamo appena ascoltato quali potevano essere, presumibilmente, le regole del gioco e abbiamo visto come, effettivamente, il Patolli altro non fosse se non un gioco d'azzardo, in cui venivano messi in gioco dei beni scommettendo sulla propria vittoria. Molti dei giochi che vedremo, in un modo o nell'altro, nell'arco delle nostre puntate, possono essere considerati giochi d'azzardo. Questo perché l'azzardo, la sfida, la competitività è un elemento intrinseco del gioco, senza il quale, il più delle volte, il gioco non avrebbe modo di esistere. Abbiamo chiesto alla professoressa De Sanctis Ricciardone di parlarci anche di questo aspetto, molto importante e significativo, dell'azzardo e anche del fascino che esercita sull'uomo e del suo rapporto col sovrannaturale. Vorrei passare da questa cosa della probabilità alla seconda domanda, e cioè il fascino dell'azzardo. Mi interessava approfondire questo punto, nel senso che soprattutto per quanto riguarda i giochi nordamericani, ma anche per tutti i giochi che fondamentalmente includono un tiro di dadi nella loro struttura, c'è un pochettino questa tendenza ad affidarsi, insomma, al caso, all'eventualità di un risultato piuttosto che un altro, ed è comune a moltissimi giochi e ritornerà in tutti i giochi che noi vedremo nell'arco delle nostre trasmissioni. E in particolare è anche affascinante poi andare a cercare nei racconti dei missionari piuttosto che dei primi antropologi come questi giochi basati su questi tiri di dadi e su queste eventualità raccogliessero così tanto pubblico, nel senso che poi erano giochi che... Ma poi sono stati, per esempio, il Patolli è stato fortemente proibito, ma anche ci sono state esecuzioni, tagli di mani, cioè proprio veramente ci sono state delle repressioni fortissime, tanto perché includevano chiaramente anche dei beni, perché poi ognuno dei giocatori aveva uno stack, aveva un suo... una sua posta che consisteva in beni e che quindi per i conquistadores questo veniva visto come un qualcosa di immorale, eccetera. E poi soprattutto perché i conquistadores avevano capito che questi giochi avevano delle forti connessioni con l'universo religioso, quindi... perché infatti erano giochi destinati che comunque venivano dedicati a degli dei, eccetera, e quindi avevano capito questa connessione fra azzardo e religione, che è una connessione che gli antropologi hanno fatto molte volte poi nel corso degli anni, e cioè che tutto ciò che attiene al mondo dell'azzardo in qualche modo ha a che fare con con la religione, intanto perché anche qui, ovviamente queste sono teorie superate, però allora anche qui c'era diciamo una comparazione di tipo formale. I giochi d'azzardo assomigliano alle pratiche divinatorie. Bim bum bale giù! Radio 110, questo è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Siamo arrivati al momento conclusivo, quello dei saluti. Ricordiamo che l'argomento della puntata di oggi è stato l'antico gioco centroamericano o mesoamericano del Patolli e del suo rapporto inspiegato e discusso con il Pacisi indiano, di cui, peraltro, parleremo nella prossima puntata. Per adesso non mi resta che ricordare i contatti. 110.unito.it è il sito della web radio dell'Università di Torino, da cui potete accedere alla sezione podcast, dove trovate tutte le puntate di questa trasmissione. Vi ricordiamo anche l'indirizzo del nostro blog, cosigiocalmondo.blogspot.com, dove trovare approfondimenti sui temi delle puntate. Ringraziamo Carlo in regia, Fabio, Elena e Fabiola alle voci e la gentile collaborazione della professoressa De Sanctis Ricciardone. Io sono Francesco, l'appuntamento per Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, è per il prossimo mercoledì. Buona serata! Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo.